Sul bios, grido, se mi pesta la zappa sui piedi, campagna liberi, tutti interi, neri di fango, marroni dalla testa ai piedi, vedi, tu parli dai piani alti, dagli appartamenti dove ti apparti, i tuoi piedi distanti dalla terra, la tua città si inventa pure difetti di pronuncia, producer, produci basi da rapper, parli di cose giuste, di cose non giuste, tuttavia credi ancora sia il cartone a fare il latte, producer, io direi che sei solo un consumatore, non produci niente, da noi la gente lavora alacremente, e molte volte ci si trova a mangiare ciò che si è prodotto col sudore della fronte, agricoltore, il fango lambisce, rimesso un rotto nel borbottante, 4 marce turbo diesel, è freddo, il capo metà stop e metà zolle, il mio trattore non corre, non rispetta consegne, non soddisfa gli utenti, i buoi sono lenti ma la terra è paziente, contente selettivo basso qui in campagnoli, non sappiamo nemmeno cosa significhi, ritornello R&B, pensaci, quando torni a casa, quando mangi pasta, quando bevi birra, c'è qualcuno dietro a produrla, perché tu consumatore ignaro possa averla, possa consumarla, pensa, stai in fondo alla catena produttiva, rifletti, la condizione precaria di chi come sottoscritto è parassita, in Grecia antica anche l'artista rendeva gloria e descriveva l'agricoltore, l'importanza dell'agricoltura. Ora troppo impegnati a fare la storia, noi guardiamo la terra, inspiriamo l'odore di merda, pensiamo questa è vita, coltiverò il mio campo senza pensieri, non sarò più un parassita. Mm-hmm.